Biografilm è arrivato alla sua 20ª edizione, è un successo, un traguardo, ma soprattutto un viaggio di cura di un team molto folto, e quest'anno abbiamo 77 film, 19 anteprime mondiali, un ricchissimo programma che spazia e cerca di far dialogare tematiche universali, tematiche personali, attualità, urgenza climatica, e di parlare col territorio, con le tante associazioni che collaborano al festival, con le proiezioni e gli eventi, tanti ospiti. Cito qualcuno, avremo Joel Meyerowitz, il leggendario fotografo che è stato anche in mostra qui a Bologna qualche mese fa con Two Strangers Try Not to Kill Each Other. Poi avremo Turning the Wounds, film sull'Ucraina raccontato da due sensibilità artistiche incredibili come Abel Ferrara e Patti Smith. Apriremo il festival con Olivier Assayas, che verrà con noi a presentare il suo film, presentato in anteprima mondiale alla Berlinale, e il suo film più autobiografico, quindi quale posto migliore, più coerente, affettuosamente coerente come biografilm. E tantissimi altri film che invito tutti a cercare, a scoprire nel nostro sito, sul nostro programma. Quali saranno le novità di quest'anno? La novità è in realtà la coerenza e la passione che mettiamo ogni anno cercando di curare, di creare una selezione che rispecchi le tematiche più attuali, le tematiche più cruciali, appunto l'urgenza climatica, i diritti civili. A proposito, avremo un film che si chiama Stray Bodies sui diritti civili dei cittadini europei, quindi mettendo a confronto vari paesi e diritti che passano dal corpo, soprattutto delle donne. Ma la novità appunto è continuare a fare questo lavoro insieme in un team che sta dietro al festival, che è enorme e pieno di energia, che cerca di far convergere questi 11 giorni appunto di storie di vita, di omaggi. Avremo un omaggio a Paolo Caredda con il ritorno dell'opificio Ciclope, che è una realtà produttiva importante a Bologna. L'anno scorso hanno presentato con successo This is Bologna, e è un programma che appunto parla di attualità, parla di universalità e cerca di far convergere e di parlare a un pubblico più vasto possibile.